Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road. Ben ritrovati. Una nuova puntata di Down the Road on the Road sta per iniziare, sono Livia Napolitano. Vi ricordo i nostri appuntamenti settimanali previsti ogni martedì, giovedì e sabato alle 10, alle 16, alle 22 su Radio Libriamoci Web e in podcast su www.nottetempoblog.wordpress.com oppure sul sito della radio e sui vari social network. Con il racconto di questa settimana si conclude il primo ciclo di racconti del collettivo Linea S. A chiudere il cerchio è Marta Traverso, la più giovane del gruppo, ma una grande esperta di comunicazione. Marta Traverso è nata e vive a Genova, si occupa di giornalismo, editoria, social media e comunicazione d'impresa. Vi lascio ora all'ascolto di Il paradiso dei ginocchi sbucciati, scritto ed interpretato da Marta Traverso. Buon ascolto! Violetta ha i codini biondi, le mani piccole e le lentiggini sul naso. Il suo grembiule rosa è il più rosa di tutta la classe. La tasca davanti dello zainetto profuma di pane e torta fatta in casa. Il suo papà è rimasto a casa apposta dal lavoro, quel lunedì mattina, per accompagnarla al primo giorno di scuola. La sta aspettando nel garage, con un pacchetto rosso in mano. È forte il suo papà, sempre sorridente. Violetta scatta il pacchetto più veloce che può. Cosa ci sarà dentro? Una Barbie nuova? Un pentolino per il dolce forno? Niente di tutto questo. Il papà ha regalato a Violetta un cacciavite. È grande quasi quanto il suo braccio. Luccica e brilla sotto i raggi del sole ed è infiocchettato di un fiocchetto rosa, ma non rosa quanto il suo grembiulino. Ci rimane male un po'. Non ha ancora imparato a fare come i grandi, che biascicano tra i denti un sorriso e un «Oh, che carino!» quando ricevono un regalo brutto. Violetta è sincera. «È da maschi!» «Sì, infatti non è questo il vero regalo», risponde papà. «Il cacciavite serve a toglierti le rotelle dalla bicicletta. Così andrai a scuola come una bambina grande». Violetta è preoccupata. Le fa paura, un po', togliere le rotelle. Perché ad esempio Elisa è caduta dalla bici la prima volta che è andata senza rotelle e si è sbucciata un ginocchio e si è rovinata, in fondo, il grembiulino rosso dell'asilo. Mica vuole rovinarlo lei, il suo grembiule più rosa di tutti, e soprattutto è spaventatissima al pensiero del ginocchio sbucciato. Elisa gli ha raccontato una storia terribile. Il ginocchio che fa tanto male e rimane il segno per tanti giorni e hai sempre voglia di grattarti, di toglierti via la crosticina e se lo fai, quando ti passa, il ginocchio rimane brutto, con una macchia fatta di righette ruvide e scure. «Cosa c'è, tesoro?» Violetta piega le labbrine in una smorfia. «Avrei mica paura?» La bambina fa sì con la testa, piano, senza parlare. Si vergogna un po'. «Di cosa hai paura?» «Io che cado e mi sbuccio!» Il papà sorride, si china su di lei e le accarezza il codino sinistro. «Guarda che non c'è niente di cui aver paura. Tanti bambini cadono la prima volta che vanno senza rotelle. La vuoi sapere però una bella cosa? Quando poi guariscono, tutte le loro crosticine finiscono nel paradiso delle ginocchia sbucciate». Violetta non capiva. Il suo papà la stava prendendo in giro. Non esiste mica il paradiso dei ginocchi sbucciati. «Non ci credi? Allora, secondo te, dove vanno a finire tutte le crosticine quando al ginocchio ricresce la buccia?» Violetta ci pensa un po'. Non sa rispondere. Quando la mamma le sbuccia la frutta, le bucce vanno a finire nella compostiera in giardino. Magari si possono mettere anche lì le bucce dei ginocchi. Ti racconto una storia. Quando il primo bambino è caduto dalla bicicletta, ha pensato che le sue crosticine non avevano un posto dove stare, quando lui sarebbe guarito. Che se imparare ad andare senza rotelle era così difficile, chissà quanti altri bambini si sarebbero sbucciate le ginocchia. Non sarebbe bellissimo un posto dove tutte le ginocchia sbucciate si ritrovano insieme a guardare i loro bambini pedalare felici e non cadere più? Violetta fissa il suo papà con occhi strani. Poi si mette a ridere. A inventarsi le favole è più brava la mamma. Elle passa nas suas bicicletas, eu só vejo fogo. Luzes andam sozinhas deslizando pelas ruas. Esquecidas meninas se vão no sentido de amor. Elas andam como flor. Tu devi stare attenta a non cadere. Ma anche se ti viene una crosticina e se per un pochino ti fa male, pensa che in quel paradiso avrà molte altre crosticine con cui giocare. Violetta guarda il cacciavite che tiene in mano. È pesante, un po'. Vorrebbe dirglielo al suo papà che non è mica vera questa storia, ma non vuole che ci rimanga male. Però chissà, magari nel paradiso dei ginocchi sbucciati c'è una casa tutta fatta di cacciaviti, come in quella favola della casa di marzapane, solo che non è fatta di marzapane ma di cacciaviti. In fondo è colpa del cacciavite, che serve a togliere le rotelle se i bambini si sbucciano i ginocchi. E poi, che succede se una bambina si sbuccia i ginocchi due volte? Che nel paradiso ci vanno tutte e due le crosticine? Finisce che poi litigano e si azzuffano per ogni crosticina al suo seggiolino, con il nome del suo bambino. Ma i seggiolini sono piccoli, e allora le crosticine fanno come i cowboy e dicono: in questo paradiso non c'è spazio per tutte e due! E fanno il duello con le pistole, e chi vince può rimanere. Sì, ma allora dove va a finire la crosticina che perde? Forse è meglio che noi bambini stiamo più attenti e ci sbucciamo una volta sola. E quando siamo guariti e torniamo sulla bicicletta, abbiamo capito come si fa. E se vediamo una pietrolina in mezzo al marciapiede o una buchetta sul prato, ce ne accorgiamo prima, curviamo il manubrio e la scansiamo. Sbagliando si impara, dice sempre la mamma. È così che non si cade più. Su tesoro, la interrompe il papà. Se non ti sbrighi, facciamo tardi a scuola. Violetta è indecisa. Tiene il cacciavite stretto nella manina. Non può andare ancora una volta con le rotelle, solo per questa volta e poi basta? Sa però che il suo papà ne sarebbe triste, dopo che le ha fatto e impacchettato questo regalo. Io, però tu stai vicino a me, così non cado. Ma certo, tu pedali piano e io ti cammino accanto, così se perdi l'equilibrio ti aiuto. Se invece ti viene paura, scendi dalla bici e ci proviamo di nuovo domani. Non vogliamo mica che tu vada a scuola tutta sporca e con il ginocchio sbucciato per davvero. Violetta sorride. Ha voglia di provarci un po'. Intanto la scuola è così vicina. Porge il cacciavite al suo papà e si liscia il fondo del grembiulino mentre non perde di vista le sue mani grandi, tutte intente a far girare e saltare via la prima vite. Sta diventando proprio una bambina grande. Passam nas suas bicicletas, eu só vejo fogo. Luzes andam sozinhas deslizando pelas ruas. Esquecidas meninas se vão no sentido de amor. Elas andam como flor. E são visões tão bonitas de conhecer. E são visões tão bonitas de ver. E são visões. tão bonitas de conhecer. E são tão bonitas de ver. Do tropeço que deixo na calçada ao regressar, minha rota pra casa já mudada, pra pensar nas belezas desse mundo e encontrar bicicletas pra conversar. E são tão bonitas de conhecer. E são tão bonitas de ver. E são tão bonitas de conhecer. E são tão bonitas de conhecer. E são tão bonitas de ver. E são tão bonitas de conhecer. E são tão bonitas de ver.